Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per una puntata di Respiro in cui parleremo principalmente di biogas. Lo faremo a partire da un convegno che si è tenuto in settimana a Roma dal titolo Biogas Innovation. Ad organizzarlo è stata CPL Concordia, un gruppo cooperativo che lavora in molti settori, tra cui sviluppo e applicazione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione e fonti rinnovabili, costruzione e gestione di reti di distribuzione di gas metano, GPL, acqua ed energia elettrica. La filiera per la produzione energetica da biogas è un ingranaggio però molto complesso che, oltre a chi fa funzionare l'impianto, deve coinvolgere agricoltori, allevatori ed anche esperti finanziari ed istituti di credito. Di questo si è ragionato durante l'incontro e di questo parliamo con Roberto Casari, presidente CPL Concordia. Per noi è una conseguenza logica della nostra attività nel campo dell'energia. Noi seguiamo la filiera del metano, dell'energia da sempre, dal 60. Quindi per noi questo è un settore nel quale ci sono delle affinità. Insomma. Il biogas sicuramente è un qualche cosa che torna di attualità, soprattutto con le ultime impennate del prezzo dell'energia. Noi 10 anni fa avevamo un petrolio che costava $10 al barile, oggi ne costa 85. È chiaro che tutto il discorso sull'energia viene rivisto in questa considerazione. Insomma. E quindi insomma da qui l'avvio insomma nel certo. Settore biogas. Avvio partito quando? Beh, diciamo che sul biogas abbiamo cominciato a lavorare negli anni 95, quindi 15 anni fa, e il problema non era tanto di produrre energia dal biogas, ma era quello di togliere l'odore e mettere in sicurezza le discariche, quindi aspirando la fermentazione, il gas che si fermentava all'interno delle discariche, si evitava che queste esplodessero e che potessero, diciamo, inquinare dal punto di vista dell'odore tutta le aree circostanti. Quindi noi catturavamo questo odore, questo gas, lo mettevamo dentro dei motori e producevamo energia elettrica, quindi c'era il doppio vantaggio, sia l'energia elettrica che bonificare la discarica. Visto che c'è questo doppio vantaggio, no, che è evidente per tutti, è comprensibile e così via, perché non ce ne sono tanti di impianti di questo tipo? Qual è la difficoltà? Sì, non quanti tanti. Magari ce ne potrebbero essere o dovrebbero anche essere. Per chi lavora nel settore, quali difficoltà ci sono? Normative? No, di ostacoli? Guardi, sono tutte iniziative, per dire, anche autofinanziate, perché noi siamo disponibili a finanziare questi impianti, e come lei ha detto il doppio vantaggio, possiamo anche mettere il triplo vantaggio, perché oltre all'energia elettrica si produce anche calore che noi mettiamo in serre, dove nel caso di un consorzio, la Sabar di Reggio Emilia, i comuni di Novellara, Guartieri, cediamo il calore alle serre, dove una cooperativa sociale di ragazzi, diciamo, che avevano avuto delle problematiche, sono diventati dei produttori, forse i più grandi produttori di basilico italiano, quindi una doppia soddisfazione, avere creato anche 20 posti di lavoro, 22 insomma. Ecco, quindi bisogna, secondo me, usare buona tecnica, buone capacità e buona volontà, insomma. La collaborazione con il territorio, gli agricoltori, le possibilità che si aprono agli agricoltori, è un mondo molto vasto, insomma, quello che si nasconde dietro un impianto di biogas. Certo, diciamo intanto che sono energie che vengono incentivate dal Conto Energia, quindi non sarebbero ad oggi sostenibili questi impianti se non avessero un contributo nazionale. Ma per quello che riguardano gli agricoltori, sicuramente, tenuto conto dei bassi redditi che ormai la nostra agricoltura ha, con questi impianti incrementano il loro reddito, quindi è importantissimo, perché alla fine gente non abbandona la terra, non chiude le stalle, perché noi parliamo di biogas da organico, di allevamento, anche di bovini, di maiali, quindi integrazioni, quindi ci sono tutta una serie di sistemi. In Italia ci sono circa 280 impianti, con una capacità di 140 megawatt, quindi impianti che mediamente hanno 500 kilowatt. Secondo me il futuro è anche quello dei piccoli impianti, integrati in piccole aziende, dove non si devono fare degli impianti grandi come quello di Bondeno di Ferrara da 4 megawatt, che è il più grande d'Italia, dove ci sono consorziati più di 2000 agricoltori che conferiscono il prodotto, e quindi da questo tipo di attività ne traggono un vantaggio non indifferente. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di esempi di cose che sono lì, insomma. Lei prima diceva del contributo nazionale, un altro degli aspetti toccati nel corso del convegno è stato proprio quello del finanziamento. Diciamo che per quello che riguarda i finanziamenti ci sono anche gli istituti di credito che autofinanziano, anticipano per conto degli agricoltori questi impianti. Lo poi fanno con difficoltà o lo fanno ormai abbastanza? No, ormai sono, diciamo, rapporti consolidati. Questo settore quanto pesa in prospettiva, magari anche peserà per CPL? Noi nel 2011 abbiamo già programmi in atto e andremo ad investire circa 30 milioni di euro direttamente in un settore che per noi pesa 100 milioni, sui 450 milioni di fatturato consolidato della nostra azienda, quindi parliamo di un 25-30%, e magari solo 3 anni fa questo era un'attività che si faceva ma non con questo peso, quindi c'è un'evoluzione fortissima per noi. Io ieri ho chiesto in sala, ho detto: ma secondo voi sono veramente un problema i rifiuti, oppure con l'incremento delle materie prime, con l'incremento dell'energia, a quando arriverà qualcuno che suona il nostro campanello e ci chiede quanto vogliamo, quanto gli facciamo pagare i nostri rifiuti, perché per qualcuno avranno un valore. Ed ora, per conoscere uno di questi impianti, andiamo a Cesena. Romagna Compost è una società costituita in maggioranza da ERA più altre società del settore agricolo ed agroalimentare del territorio. Sono Amadori, Formula Servizi, Cooperativa Agricola Cesenate, Consorzio Agrario di Forlì Cesena, Orogel e Sfir. Romagna Compost è anche un impianto di compostaggio, appunto, che produce biogas e compost. Come funziona ce lo spiega Enrico Piraccini, direttore di Romagna Compost. Abbiamo cercato di replicare in scala industriale un po' i processi che avvengono nello stomaco di un ruminante, quindi di una mucca, in cui i batteri che sono dentro lo stomaco digeriscono il fieno. Noi non mangiamo il fieno come impianto, ma mangiamo il rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, quindi gli scarti delle nostre cucine, le potature, gli sfalci, eccetera, che mettiamo dentro delle celle che simulano un po' appunto lo stomaco della mucca. Riempiamo queste celle con del materiale, lasciamo che il materiale fermenti per circa 30 giorni e in questo periodo una parte del materiale si trasforma in gas metano, che a questo punto può essere utilizzato per produrre energia elettrica rinnovabile. Quindi si replicano proprio esattamente i processi dello stomaco di una mucca. Abbiamo costruito come 11 grandi mucche che mangiano tutta la nostra raccolta differenziata. E alla fine però c'è una parte che diventa appunto gas metano e però ci saranno comunque degli scarti, immagino. Sì, gli scarti hanno un successivo fase di trattamento di compostaggio per cui si trasformano in un terriccio che a questo punto può essere riportato in agricoltura. Quindi in sostanza noi estraiamo l'energia che il materiale ha, noi mangiamo la pasta o la carne perché ci dà energia, ecco, noi estraiamo quell'energia lì e il residuo lo trasformiamo in un terriccio che possiamo riportare come fertilizzante nei campi. Tra l'altro questo impianto, mi dicono, non ha emissioni di odori. Sì, uno degli obiettivi che ci eravamo posti era di ridurle enormemente, perché di solito gli impianti di compostaggio generano, quelli che normalmente trattano la raccolta differenziata, generano un po' di cattivi odori o possono generare. Questo processo qui, essendo tutto avvenuto in ambiente pressurizzato, non consente il rilascio di cattivi odori, per cui i cattivi odori in realtà si trasformano in metano che viene aspirato e viene avviato ai motori elettrici che appunto per trasformare in energia. Quindi i cattivi odori non esistono più come cattivi odori, ma si trasformano in metano. È ovvio che il metano si evita quanto più possibile di disperderlo nell'ambiente, di farlo uscire e inoltre non ha puzza. L'impianto funziona già a pieno regime? Sì, quest'anno sì. Tratteremo 30.000 tonnellate alla fine dell'anno di rifiuto organico e già un funzionamento. Non è a pieno regime, non è al massimo, entro il prossimo anno dovremo arrivare alla capacità massima, che è di circa 40.000 tonnellate di rifiuto umido. Ma da che cosa dipende questa scarto? È una crescita lenta del processo, siamo partiti i primi mesi che trattavamo poco rifiuto, poi pian piano, man mano che i batteri si sono sviluppati, è un po' come avviene nel nostro stomaco, quando abbiamo la diarrea o qualcosa, che sono pochi batteri, poi dobbiamo prendere tipo fermenti lattici per farli ricrescere. Noi entro il fine del prossimo anno avremo abbastanza fermenti lattici per trattare tutti i rifiuti organici. Quanto tempo ci è voluto per la realizzazione di questo impianto? Dunque abbiamo messo circa 5 mesi per la fase autorizzativa e un anno e mezzo per la fase di costruzione. Quindi è stato un impianto realizzato molto velocemente. È un progetto elaborato da ERA? Sì, da ERA e Romagna Compost assieme, che abbiamo pensato anni fa, dovevamo ampliare l'impianto di compostaggio esistente, che è un processo appunto che produce terriccio ma non produce energia. Abbiamo detto, ma possiamo affrontare il problema in un altro modo, siccome sappiamo che negli scarti alimentari appunto c'è dell'energia, abbiamo cercato in tutta Europa quali erano le tecnologie più sviluppate e abbiamo cercato di prendere la migliore che c'era per realizzare questo impianto. Quindi, diciamo, questo vi siete ispirati da quale paese d'Europa? Dalla Germania. Diciamo, il nostro impianto era, abbiamo avuto il primo impianto che abbiamo visitato è stato quello di Monaco, di Baviera, che però in realtà era più piccolo del nostro, quindi adesso il nostro è più grande di quello di Monaco. Però quello è stato il primo che è stato realizzato, ma anche in Germania al momento in cui abbiamo scelto la tecnologia non ce n'erano molti, ce n'erano uno o due, per cui diciamo siamo proprio all'avanguardia al momento. Quanto spazio occupa, diciamo, sul territorio? Circa un ettaro e mezzo, quindi 10-15 mila metri quadri, è abbastanza contenuto. Abbiamo cercato di curare anche l'estetica, perché si vada oltre il concetto di impianto di trattamento rifiuti, di produzione di energia, ma diventi un po' un riferimento anche ecologico nella città, nelle scuole, quindi deve essere tutto gradevole, insomma. C'è una raccolta differenziata legata che consente di trasformare i nostri rifiuti in energia elettrica, che è la stessa energia che poi quando accendiamo la lampadina utilizziamo in casa nostra. Secondo me è più incentivante che pensare a una raccolta differenziata in cui l'organico che produciamo si trasforma in terriccio. Qui si trasforma sì in terriccio ma anche in energia elettrica rinnovabile, quindi ha un doppio valore la raccolta che facciamo. È tutto per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora, un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.